Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Speciale Expo 2015 di Piera Ceci. Questa mattina la festa per l'inaugurazione dell'Expo, padiglioni tutti sostanzialmente pronti e 200.000 visitatori. L'Italia si è desta, dice il premier Renzi. Poi nel pomeriggio festa rovinata da alcuni manifestanti no Expo che hanno devastato il centro di Milano, auto incendiate e vetrine infrante. 10 i fermati a fine giornata. Il messaggio di lavoro, orgoglio e valori che viene da Expo non sarà insultato dai violenti e da quei vigliacchi incappucciati, commenta Palazzo Chigi. Abbiamo fermato molti delinquenti, saremo durissimi contro questi farabutti col cappuccio. Nessuno si sogni di liberarli subito, twitta il ministro Alfano, ma Salvini ne chiede le dimissioni. Sindacati a Pozzallo nel giorno della festa dei lavoratori. Per la leader della CGIL Susanna Camusso, dal governo solo propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea occupazione. La disoccupazione rimane una ferita lacerante nel corpo sociale, dice il presidente Mattarella, secondo cui il lavoro è la prima delle priorità. A Piazza San Giovanni il tradizionale concerto del 1° maggio. E proprio al concertone un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Nepal, estratte ancora 2 persone vive dalle macerie, ora si parla di 6.200 vittime ed è sceso a 2 il numero degli italiani ancora irreperibili. 6 poliziotti incriminati a Baltimora per la morte del 25enne nero Freddie Gray. È assolutamente vitale che la verità su quello che è successo venga fuori, ha detto il presidente americano Barack Obama. È morto a 76 anni il cantante soul Ben E. King. Era conosciuto soprattutto per la canzone Stand By Me, definita nel 99 una delle 4 canzoni più suonate dalle radio americane nel secolo scorso. Quello che si temeva purtroppo dunque si è verificato, lo abbiamo raccontato nel corso della nostra giornata qui su Radio 24, una festa, quella del primo giorno dell'Expo, rovinata dalle devastazioni e dalle violenze nel centro di Milano. A parlare di festa rovinata è anche il commissario Expo Giuseppe Sala. E allora siamo costretti a ripartire proprio da qui, avremmo voluto oggi raccontare una giornata di festa, invece è una giornata di scontri quella che siamo costretti a raccontare. Lo facciamo con la nostra Raffaella Calandra, che nel pomeriggio ha seguito la manifestazione. Allora Raffaella, buonasera. Sì, la guerriglia è finita quando le divise della battaglia sono state abbandonate: felpe, mantelli neri, passamontagna, guanti, scarpe insieme a mazze, martelli e caschi. La guerriglia è finita di fatto in via Guido d'Arezzo, quando i Cassor si sono confusi con gli altri e hanno smesso di essere i neri della galassia anarchica internazionale che ha devastato il centro di Milano per ore. Erano più di 1.000, ma ne sono stati fermati solo 10 dopo aver incendiato auto e banche, spaccato vetrine, lanciato molotov e pietre, lasciato distruzione dietro di sé. Il segnale se lo sono passato in via di Amicis, è lì che nella coda del corteo dagli zaini sono spuntati prima le maschere antigas, poi i martelletti frangivetro. Il primo assalto è avvenuto contro una concessionaria di auto, la firma Smash Expo, i tedeschi. Da allora in poi sarà un crescendo, le pensiline degli autobus, le vetrine dei negozi e delle poste vengono spaccate, volano le prime molotov in via Cesare Correnti, da dietro le barricate alzate per bloccare la strada al Duomo, la polizia risponde con gli idranti. La battaglia diventa feroce, vengono picconati i muretti antichi del collegio dell'Università Cattolica, quelle pietre verranno poi lanciate contro nuovi bersagli, spuntano bottiglie piene di benzina, si incendiano le prime auto in via Carducci, una colonna di fumo nero si alza sul corteo quando già le macchine che bruciano saranno molte di più e il fumo investe in pieno i primi piani delle case. Dal corteo si lanciano bottiglie anche contro i balconi, incendi, scontri e cariche ancora in piazza Cadorna, molti si disperdono, perdono nelle strade laterali. La polizia fa cariche di alleggerimento prima che questa coda nera e dura del corteo arrivi in Pagano, previsto luogo dell'ultima battaglia. E così è stato, prima che i violenti, che parlavano varie lingue europee, non abbandonassero le divise della battaglia insieme alle armi e lasciassero dietro di sé i feriti, 11 tra le forze dell'ordine, le devastazioni e le colonne alte di fumo. Ed è tutto. Grazie Raffaella Calandra, tra poco la ospiteremo qui in studio, ti aspettiamo Raffaella per tornare dunque su questa giornata nera per Milano, sentiremo anche le voci che hai raccolto fra i manifestanti. E in serata la nota di Palazzo Chigi, il messaggio di lavoro, orgoglio e valori che viene da Expo non può essere e non sarà insultato dai violenti o da questi vigliacchi incappucciati. Un grande grazie alle forze dell'ordine, a tutto il sistema della sicurezza milanese, dice invece il ministro dell'interno Alfano, hanno evitato il peggio con intelligenza e fermezza. E il sindaco di Milano Pisapia assicura che fin d'ora verranno mobilitate tutte le forze per ripulire e sistemare al più presto le zone coinvolte dai disordini. Tante comunque inevitabili le polemiche politiche. Amministrazione comunale di Milano, ma soprattutto il governo sotto accusa per gli incidenti a margine dell'Expo. Tutte le opposizioni chiedono che l'esecutivo chiarisca quanto accaduto. Per Lega e Fratelli d'Italia il ministro Alfano deve dimettersi, così il leader del Carroccio Salvini. Ragazzi, ma chi è che deve garantire l'ordine pubblico? C'è un ministro dell'interno che diceva che era tutto sotto controllo e c'è un presidente del Consiglio che ha fatto il fenomeno stamattina all'Expo dicendo l'Italia si desta e ha regalato all'Italia una figura di palta a livello planetario con auto in fiamme, negozi devastati e milioni di euro di danni. Quindi qualcuno si deve dimettere, qualcuno deve pagare. Quanto accaduto era ampiamente previsto, dicono La Russa e Meloni, Fratelli d'Italia e Gasparri di Forza Italia. I Black Bloc con il loro comportamento danneggiano anche chi manifesta in modo pacifico, aggiunge Scott di Sinistra Ecologia e Libertà. I migliori amici dei potenti del mondo sono quelle tute nere che oggi stanno devastando Milano, ma sono anche i migliori nemici di quelli che invece hanno scelto di manifestare oggi. In difesa dell'operato del governo i partiti di maggioranza, Schifani, Nuovo Centrodestra, appoggia Alfano, per Serracchiani, PD, vanno condannate senza appello le vili violenze. Attenzione ai fatti di Milano da Palazzo Chigi, vigliacchi e violenti non insulteranno Expo, dicono dall'esecutivo, quindi il presidente della Repubblica Mattarella, che esprime ferma condanna. I teppisti, dice, vanno puniti, solidarietà a cittadini e forze dell'ordine. Vincenzo Miglietti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una giornata, quella di oggi, lo dicevamo, che doveva essere solo di festa. E allora sentiamo com'è andata nella sede dell'Expo dalla nostra inviata Laura Bettini. La giornata qui è stata rovinata soltanto dalla pioggia, è andato tutto liscio, ci sono state alcune code al mattino alla biglietteria, ma niente di drammatico, e direi molto entusiasmo tra i primi che sono entrati. Ne sentiamo qualcuno. Da dove venite? Io dalla Valle di Ledro, quindi dal Trentino, Lago di Garda, Austria. Come mai la scelta di venire proprio il primo giorno? Non so, pensavo che fosse particolare essere qui la prima giornata, diciamo. Yeah, it's brilliant. It's just one of the most important things in Italy at the moment. No, zero problemi. Non c'era nessuno alla cassa. Noi abbiamo parcheggiato al parcheggio Arese, ci hanno portato col pullman, zero problemi, zero. Nel pomeriggio poi l'inaugurazione non ufficiale, quindi molto informale, del Padiglione Italia, con molti visitatori che hanno fatto la coda per visitare la mostra. Guardandoci in giro abbiamo notato anche noi che ci sono ancora diverse rifiniture da fare, qualche perplessità al momento su quello che è il risultato finale, ma da domani le cose saranno già diverse per coloro che visiteranno questa esposizione e l'intero padiglione. Padiglioni dunque sostanzialmente pronti, lavori più o meno ultimati, stamattina a mezzogiorno la cerimonia d'apertura. Allora sentiamo le parole orgogliose del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che non ha nascosto la sua soddisfazione. Siamo un grande paese, che abbiamo una grande forza, che abbiamo un grande ruolo e che dobbiamo smettere di stare soltanto a piangerci addosso come vorrebbero alcuni professionisti del «non ce la farete mai». Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta, stamattina è la vostra risposta. È andato invece al tema principe di questo Expo, il tema del cibo e del diritto al cibo per tutti, il pensiero di Papa Francesco. Facciamo in modo che questa Expo sia occasione di un cambiamento di mentalità, per smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane, ad ogni grado di responsabilità, non abbiano un impatto sulla vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame. Lasciamo Milano, ci spostiamo a Roma, dove è in corso il tradizionale concerto del 1° maggio a Piazza San Giovanni. Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buonasera. 1 milione secondo gli organizzatori e le presenze di questa kermesse, è stato comunicato proprio un istante fa. La maratona musicale va avanti fino a mezzanotte, ma la piazza ha ancora voglia di ballare e cantare. Sono 6 ore che è cominciata questa manifestazione, oltre 700.000 le persone fino a qualche... Torneremo a collegarci tra poco con Alessandra Schepisi. Evidentemente la linea è caduta, ci sono moltissime persone, 700.000 sentivamo, quindi insomma è facile che le linee non reggano. Ma la festa dei lavoratori si era aperta questa mattina con le parole del presidente Mattarella e la manifestazione dei sindacati a Pozzallo. La disoccupazione è una ferita lacerante per il paese, così ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata del lavoro. Giovani e Sud sono le nostre priorità, ha detto il presidente, ricordando che la condizione per creare lavoro è un impegno scritto anche nella nostra Costituzione. La nostra carta fondamentale indica un obiettivo che è anche un obbligo morale e civile, cercare costantemente di costruire le condizioni per allargare le basi del lavoro fino alla piena occupazione, perché il lavoro divenga la prima delle priorità. Hanno scelto invece Pozzallo in Sicilia, luogo di sbarchi di migranti, i sindacati confederali per la loro manifestazione. L'Europa non può essere egoista, ha detto il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan. Il diritto d'asilo è scritto nella nostra Costituzione, le ha fatto eco il segretario della CGIL, Susanna Camusso. Expo, ha detto, è un'occasione di sviluppo e crescita per il paese, non è in contrapposizione con la giornata del lavoro, e sul governo è stata molto dura. Come si fa a continuare a dire che ci sono le risposte quando non abbiamo più gli ammortizzatori, quando la cassa in deroga sparisce? E noi vorremmo dire che l'imperativo di un governo, l'ossessione quotidiana, dovrebbe essere esattamente quella di creare lavoro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi andiamo negli Stati Uniti, dove 6 poliziotti sono stati incriminati per l'omicidio di Freddie Gray, che ha provocato pesanti disordini a Baltimora. La morte di Freddie Gray è stato un omicidio. Abbiamo indizi fondati per chiedere l'apertura di un processo nei confronti dei 6 agenti presenti durante l'arresto. Così il procuratore del Maryland, Marilyn Mosby, titolare dell'indagine sul 25enne afroamericano morto il 19 aprile scorso a Baltimora mentre si trovava in custodia della polizia, ha formalmente presentato le accuse di omicidio che hanno fatto scattare gli ordini di arresto. L'accusa più pesante, omicidio volontario, è a carico di uno dei 6 agenti. Per altri 3 l'accusa è omicidio colposo, aggressione per i restanti 2. Secondo il procuratore, gli agenti hanno condotto un arresto illegale e non hanno fornito a Gray l'assistenza medica necessaria nonostante lo abbia ripetutamente richiesto. Ai manifestanti che da giorni protestano per le strade di Baltimora e non solo, il procuratore ha promesso giustizia, chiedendo loro di continuare le proteste ma in modo pacifico. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle del presidente Obama. È vitale, ha detto, che la verità venga fuori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Nepal sono oltre 6.200 i morti accertati, ancora 2 gli italiani irrintracciabili. È in ginocchio il Nepal, mentre si susseguono numeri che fanno il bilancio di danni e vittime difficili anche solo da immaginare. Per rialzarsi avrebbe bisogno di 2 miliardi di dollari, secondo il ministro delle finanze, ma è una stima iniziale. Servono per ricostruire case, ospedali, uffici governativi e gli edifici storici devastati dal terremoto del 25 aprile. E sul fronte delle vittime, l'ultimo bilancio del Ministero dell'Interno è di 6.204 morti e 13.924 feriti. Il governo fornirà a ogni famiglia dei ceduti $1,000 per prima assistenza e 400 per spese di sepoltura. Intanto sono stati recuperati i corpi dei 2 speleologi italiani Oscar Piazza e Gigliola Mancinelli, rimasti uccisi vicino al villaggio di Langtang, trasferiti a Kathmandu. Continuano le ricerche degli altri 2 alpinisti trentini della spedizione dispersi. Quasi tutti gli italiani sono sulla via di casa, mentre ancora 1.000 cittadini europei sono irreperibili. Secondo le Nazioni Unite, 600.000 case sono state distrutte o danneggiate, 8 milioni di persone sono state colpite, almeno 2 milioni avranno bisogno di tende, acqua, medicine e cibo nei prossimi 3 mesi. Numeri, vittime e danni che potrebbero ancora crescere anche per le epidemie. Molte regioni del paese sono ancora isolate e secondo i vertici dell'esercito nepalese alla fine 15.000 potrebbero essere le vittime del sisma. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E alla Scala va in scena la Turandot di Puccini, evento musicale legato ad Expo, e allora ci colleghiamo in diretta con la Scala di Milano e con la nostra Marta Cagnola. Marta. Sì, Pier, allora inevitabilmente il pensiero, quella scala è stato tutto per il pomeriggio di scontri. Rimane una festa un po' rovinata, un peccato in un momento come questo, ha commentato subito il commissario unico di Expo Giuseppe Sala, ma dobbiamo andare avanti. In tanti però hanno cercato di sottolineare come distogliere l'attenzione dall'opera e dall'Expo sia poi alla fine darla vinta a queste violenze, da tutte definite totalmente ingiustificabili. Atmosfera solo un pochino più distesa durante il primo intervallo. Il primo atto è stato applaudito, c'è stato anche un applauso a scena aperta, piaciuto a Carla Fracci, piaciuto a Giorgio Armani, che in particolare ha detto che sono molto belli i costumi, quindi credo che sia una grande qualità il commento di Giorgio Armani. Adesso però si attende, insomma, di capire se il finale di questa Turandot sarà apprezzato. Certo. Intanto però è importante sottolineare come il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il prefetto Paolo Tronca abbiano lasciato la scala poco dopo l'inizio del primo atto, quindi probabilmente proprio legata all'emergenza cittadina, esatto, certo, non si sono potuti godere la serata. Ebbene no. Grazie Marta, noi ci risentiremo poi nell'ultima parte di Effetto Notte, perché ne vogliamo sapere un po' di più su questo spettacolo. Grazie mille, a fra poco, ci fermiamo un istante per Strada in diretta. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Questa mattina la festa per l'inaugurazione dell'Expo, padiglioni tutti sostanzialmente pronti, 200.000 i visitatori, l'Italia si è desta, dice il premier Renzi. Poi nel pomeriggio festa rovinata da alcuni manifestanti no Expo che hanno devastato il centro di Milano, auto incendiate e vetrine infrante, 10 fermati a fine giornata. Il messaggio di lavoro, orgoglio e valori che viene da Expo non sarà insultato dai violenti e dai vigliacchi incappucciati, commenta Palazzo Chigi. Abbiamo fermato molti delinquenti, saremo durissimi contro questi farabutti, nessuno si sogni di liberarli subito, twitta invece il ministro Alfano, ma Salvini ne chiede le dimissioni. Sindacati a Pozzallo nel giorno della festa dei lavoratori, per la leader della CGIL Susanna Camusso dal governo solo propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea occupazione. La disoccupazione rimane una ferita lacerante nel corpo sociale, dice il presidente Mattarella, secondo cui il lavoro è la prima delle priorità. A Piazza San Giovanni in questi minuti il tradizionale concerto del 1° maggio. 6 poliziotti incriminati a Baltimora per la morte del 25enne nero Freddie Gray. È assolutamente vitale che la verità su quello che è successo venga fuori, commenta il presidente americano Barack Obama. Ebbene sì, questa è la musica che avremmo voluto sentire oggi, invece abbiamo sentito questo. Raffaella Calandra, l'abbiamo già ospitata nella prima parte di Effetto Notte, ha seguito oggi la manifestazione per Radio 24, le devastazioni nel centro di Milano di cui sentivamo alcuni sonori. Allora, com'è andata? In qualche momento ci hai fatto anche avere paura durante le tue dirette, perché sentivamo davvero degli scoppi molto, molto forti alle tue spalle. Ero mescolata, diciamo, quasi, ero vicina all'ala più dura della manifestazione, a questo gruppo di neri, appartenenti neri perché sono vestiti di nero, nulla a che fare con l'appartenenza politica, sono tutti vestiti di nero, che erano in coda al corteo, e in alcuni momenti ci sono stati dei momenti davvero, diciamo, di tensione molto alta, sì. Ecco, tu hai raccolto molte voci che vogliamo far ascoltare, una in particolare non ci piace molto, ma la facciamo sentire lo stesso. Questo è un modo per farsi ascoltare, perché in effetti un'auto bruciata non produce tutti i danni che ha prodotto invece una manifestazione come l'Expo, ovvero infiltrazioni mafiose, salari da fame e sfruttamento delle persone. Quindi, insomma, ad un certo punto la resistenza è anche dovuta, non è semplicemente un puro atto violento. Questo è un modo di esprimere il proprio dissenso, e secondo me è anche un modo giusto, perché quando uno non ha altri modi per esprimersi, lo fa in questo modo. A fatica, in Piazza Pagano, quando ormai la battaglia era finita, sono riuscita anche a parlare con uno degli antagonisti. A fatica perché i giornalisti diventano... Quello che abbiamo sentito. Diventano uno dei bersagli a loro volta, quasi nessuno vuole parlare con i giornalisti, anzi più volte soprattutto i colleghi con le telecamere sono stati strattonati, c'è stato un lancio di uova contro i giornalisti, è diventato rischioso in alcuni casi fare fotografie. Io ho visto con i miei occhi alcuni di questi casseur spaccare le prime vetrine con i martelletti frangivetro, li ho visti lanciare le bottiglie Molotov, li ho visti oltre che lasciare le scritte di No Expo oppure le scritte con la A degli antagonisti o ancora degli Smash Expo i tedeschi, ma non sempre è stato possibile fotografarli perché appunto è il loro prima diciamo rischio, è quello di essere poi identificati anche attraverso queste fotografie, e quindi sono molto duri e violenti anche con stessi cronisti. Certo. E invece il nostro Simone Spezia, anche lui ha seguito per noi la manifestazione, ha raccolto la testimonianza di alcuni milanesi che naturalmente si sono visti spaccare negozi, spaccare vetrine, incendiare le auto. In particolare vi vogliamo far ascoltare la testimonianza di una donna, di una panettiera che ha visto proprio la sua auto data alle fiamme. Ascoltiamola. No, la macchina per fare le consegne. Che lavoro fanno? Il pane, il panettiere. Io li capisco, li voglio bene, ma non, cosa c'entriamo noi povera gente? Cosa abbiamo fatto di male noi? Cosa c'entriamo? Io glielo dico, li apprezzo, gli voglio bene, tutto, ma io cosa c'entro con la cattiva? Perché io ero in casa, dico no, proprio quando ho visto, cioè ero qui, ho visto, però non pensavo che facessero, c'ho il cuore a pezzi. Ecco, questa è la testimonianza raccolta da Simone Spezia. Sono vie anche che riportano a periodi bui della nostra storia, queste dove si sono verificati gli scontri, soprattutto lì dove sono iniziati, in via di Amicis. Tutti ricordiamo la celeberrima foto di una P38 puntata contro un poliziotto in via di Amicis, e io avevo fotografato prima che il corteo partisse in piazza 24 maggio una scritta che rievocava proprio la P38. Devo dire che in via di Amicis e poi ancora più avanti in via Carducci ci sono stati dei momenti di scontro davvero molto forte, quando sono state incendiate appunto, come sentivamo, le auto che erano lasciate lungo la strada, e queste colonne di fuoco e di fumo anche hanno investito i primi piani delle case, con il timore anche che queste auto potessero esplodere. Quindi in diversi momenti ci sono state anche delle cariche di alleggerimento della polizia, con la fuga generale di tutte quante le persone, il rischio di essere travolti in una nuvola di lacrimogeni, fumogeni che investiva tutti e anche rendeva anche molto complicato vedere, perché proprio anche letteralmente gli occhi cominciavano a bruciare. Lo sentivamo anche da Marta Cagnola, naturalmente le notizie degli scontri sono rimbalzate alla Scala, anche perché si temeva che qualche castor potesse poi arrivare anche lì. Sentiamo alcune testimonianze raccolte proprio da Marta Cagnola, in particolare quella dell'ex presidente Napolitano. Comunque queste blindature sono purtroppo una necessità del momento, ma la inaugurazione è stata straordinaria ed è stata, nonostante la pioggia, luminosa. E lo sentivamo anche il commissario Expo Sala, ha detto insomma festa rovinata, sempre alla Scala, anche lui è dovuto poi scappare via a causa di quello che è successo. Ma un po' sì, rimane un po' di festa rovinata, senz'altro sì, insomma. È veramente un peccato in un momento come questo, in cui mi sembrava che tutto il paese si fosse raccolto intorno a noi, nel momento in cui la gente che è venuta all'Expo mi sembrava veramente tutta felicissima, e che va rispettato le opinioni di tutti, ma qui è difficile capire quali sono le opinioni di questi pochi violenti. Rimane il fatto che comunque bisogna andare avanti, e noi andremo avanti, siamo molto concentrati. Oggi è stato un successo per chi ha lavorato per me, ma l'invito che faccio ai miei è: fate un reset, perché da domani si ricomincia un'altra vita fatta di 6 mesi di tanto lavoro. Queste invece le parole del ministro dei beni culturali Enrico Franceschini arrivando alla Scala. Beh, c'è un avvio molto positivo di Expo, c'è un'Italia che crede nel futuro, che lavora, che ha voglia di andare avanti, è l'Italia che piace al mondo e non saranno certo alcune centinaia di violenti a rovinare questa festa. Oggi dunque gli occhi del mondo erano puntati sull'inaugurazione dell'Expo e purtroppo non abbiamo fatto una bella figura con quanto accaduto a Milano per le strade di Milano. Sergio Nava. Sì, allora buonasera. Innanzitutto diciamo che l'Expo ha figurato sia nei telegiornali, ascolteremo anche qualche contributo ora, sia anche sui siti online dei principali media, soprattutto europei. Bisogna dire che la copertura non è stata enorme, non è stata certamente l'apertura dei vari... Occhi puntati su Milano, diciamo, un sì, po' gli occhi puntati per modo c'erano. Di dire, però forse meglio a questo punto. Però diciamo che guardando un po' i telegiornali che ci sono stati, soprattutto quelli disponibili online, diciamo a metà giornata, figurava intorno al 20°-30° minuto, un po' diciamo tra le chiusure. Faccene sentire qualcuno. Allora sentiamo subito, partiamo subito con ZDF. Die Frecce Tricolore Italiens Kunstflug. Molto carino, perché il ZDF parla proprio delle frecce tricolori che hanno inaugurato l'Expo e diciamo che sia ZDF ma anche quelli sentiremo poi hanno un po' ricordato tutti che questa Expo è arrivata dopo tanti scandali, hanno detto nonostante gli scandali, nonostante i lavori fatti in fretta, l'hanno detto un po' tutti, questo purtroppo va constatato, gli italiani insomma ce l'hanno fatta e hanno aperto. Sentiamo anche i nostri cugini francesi. Les énergies nouvelles, l'agriculture, l'alimentation, plus de 140 pays vont présenter. Questa ici è France 2 che ha appunto invece ricapitolato in collegamento da Milano un po' tutti i temi di questa Expo, si capisce? Un po' l'agricoltura, le energie rinnovabili eccetera, tutti i telegiornali, tutti i giornalisti televisivi sono andati a visitare i rispettivi padiglioni, tedeschi nel padiglione tedesco, i francesi in quello francese e anche gli spagnoli. Sentiamo il telediario di TV1. Esta mañana una nueva manifestación ha recorrido las calles de Milán contra la exposición universal. E qui già sentiamo che c'è chi si è anche occupato delle manifestazioni all'epoca, perché chiaramente parliamo del telegiornale delle tre, che è il telegiornale di mezza giornata. In Spagna si parlava di manifestazioni ancora pacifiche, poi però è successo quello che è successo e quindi abbiamo Reuters che nella sua edizione online dice scontri oscurano l'inizio dell'Expo a Milano, Le Parisien, giornale online di Parigi, Milano lanci di pietre e gas lacrimogeni a margine della esposizione universale e ancora molta attenzione sugli scontri sui giornali spagnoli, Il Mundo e Il País. Il País dice scontri a Milano tra la polizia e i manifestanti e Il Mondo, caos a Milano per gli scontri forti tra polizia e diciamo i manifestanti antisistema. Questo è un po' lo sguardo internazionale. Grazie al nostro Sergio Nava. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo insieme. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. La zona intorno alla Scala è completamente blindata, polizie e carabinieri hanno rafforzato i cordoni di sicurezza, tutte le vie d'accesso sono bloccate dai blindati delle forze dell'ordine, è arrivato anche un mezzo dei vigili del fuoco, tutto questo dopo che alcuni manifestanti No Expo hanno devastato il centro di Milano, auto incendiate, vetrine infrante, 10 fermati a fine giornata. Il messaggio di lavoro, orgoglio e valori che viene da Expo non sarà insultato dai violenti e da questi vigliacchi incappucciati, commenta Palazzo Chigi. Sindacati a Pozzallo nel giorno della festa dei lavoratori, per la leader della CGIL Susanna Camusso, dal governo solo propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea occupazione. E la disoccupazione rimane una ferita lacerante nel corpo sociale, dice il presidente Mattarella, secondo cui il lavoro è la prima delle priorità. A Piazza San Giovanni il tradizionale concerto del 1° maggio. E proprio al concertone un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Nepal, estratte ancora 2 persone vive dalle macerie, ora si parla di 6.200 vittime, è sceso a 2 invece il numero degli italiani ancora irreperibili. Eccolo qua il coro dei bambini che questa mattina abbiamo ascoltato all'inaugurazione dell'Expo, una festa rovinata, quella di oggi, dice il commissario di Expo, appunto Sala, perché in effetti al sito di Expo, quello che per la prima volta ha svelato i suoi padiglioni questa mattina, in realtà tutto è andato bene, quindi davvero poteva essere una festa quella di oggi. Gigi Donnelli. Ciao Piera, buonasera agli ascoltatori. Gigi. Ma in realtà è stata una festa all'Expo. All'Expo è stata una festa perché, insomma, tu ce l'hai raccontato abbondantemente. Chi ha ascoltato oggi Radio 24, devo dire, avrà sicuramente molte sorprese, chiaramente andando all'Expo, però, insomma, diciamo che gli hai preparato un po' il terreno, perché ce l'hai davvero descritto parecchio. Dunque, tutto pronto, padiglioni che si sono aperti, si sono svelati, come dire, in tutta la loro bellezza, perché tu mi sembravi, dalle tue parole di questa mattina, anche piuttosto, insomma, contento di vedere una scena, delle belle scene, dei bei padiglioni. Ma assolutamente sì, come dicevamo, insomma, secondo me in sintesi, a maggior ragione dopo la giornata di oggi, ecco, non completato al 100%, sembra un controsenso, ma è così, perché è chiaro che ci sono ancora dei dettagli da completare, però insomma l'impianto è ben completo, i padiglioni si sono appunto svelati, come dicevi tu. Oggi è stata anche la giornata, soprattutto il pomeriggio, delle aperture, quindi il padiglione del Brasile, quello dell'Angola, molto bello, un padiglione africano di legno e di storie femminili appunto del continente africano, molto bello. Tutto il padiglione coreano, modernissimo, super tecnologico e bianchissimo. Ecco, tutto quanto, bisogna dire, in un clima meteorologico che nel frattempo volgeva al peggio. Oggi pomeriggio pian piano si andava verso l'autunno inoltrato. Adesso sì, in effetti devo dire è stata una scena, tutti con questi giacchini impermeabili, bruttini diciamo, no? Bianchini, e lì è stato un momento fortunato, Piera, perché quando insomma abbiamo fatto le dirette, le abbiamo preparate, ha cominciato a piovere prima, poi si è interrotto alle 11 e fino a luna appunto non ha più piovuto, cosa che ha permesso uno svolgimento tutto sommato normale. Il pomeriggio la situazione è cambiata, quindi pioggia vera. Devo dire che mi ha permesso a me e a migliaia di altre persone di testare la tenuta di questo particolarissimo tetto, che di fatto è una sequenza di tendoni del decumano e del cardo. Ah, ed perché il decumano è coperto, quindi vedi, io questo non l'avevo capito. Il decumano è coperto ma aperto, è una sequenza di vele incrociate che ti permettono di vedere di fatto il cielo, che vabbè oggi era grigio, c'era poco da vedere, ma nello stesso tempo ti protegge questo tetto dalla pioggia, per cui è una soluzione architettonica anche interessante, piacevole, certo, da vedere. Sì, assolutamente. Certo, senti, non adatta all'autunno che abbiamo avuto nel pomeriggio, ma dovrebbe migliorare rapidamente. Senti, chi è che c'era oggi? Curiosi? Insomma, perché il primo giorno, insomma, molte autorità, padiglioni magari ancora da sistemare, invece c'erano 200.000 visitatori, si sono tutti precipitati. Sì. Ovviamente io non sono in grado di dirti, di farti l'elenco dei presenti, ma sicuramente una fortissima presenza da parte dei corpi consolari, delle comunità locali. Per esempio intorno al padiglione francese ho notato chiaramente la presenza anche di studenti della scuola francese, che poi con cui abbiamo scambiato delle parole, comunità di immigrati. Per esempio, una cosa che ha fatto anche tenerezza al padiglione della Moldavia, mi hanno detto: sì, siamo qui perché una volta tanto ci piacerebbe non essere visti solo come dei migranti, ma anche come delle persone che hanno una loro storia culturale alimentare. Ecco, i thailandesi, ci sono, dove si parlava anche di Milan, tra l'altro, per le vicende ben note. Chissà perché. In questi insomma giorni. Era veramente una grande piazza. B non si è visto però, No, infatti scherzosamente gliel'abbiamo chiesto, ma pare che fosse in centro città a fare altro. Senti, dalla tua prima impressione, se potessimo dare un consiglio a chi ci ascolta, cos'è che è imperdibile al momento, da quello che hai visto tu? Beh, oddio, ripeto, alcuni che abbiamo citato, lo stand del Brasile è divertente, soprattutto se ci si va in famiglia, è tutto fatto in una rete che vola su un frammento di foresta pluviale, così come i padiglioni asiatici sono davvero spettacolari, molto aggressivi. Sì, ma nello stesso tempo anche il padiglione svizzero, che è molto educativo, da ragionarci un po' di più, non è spettacolare ma è molto intelligente. Poi, ma devo dire che ci sono moltissimi spunti, io non l'ho visto completamente, perché credimi, con 54 padiglioni nazionali, i cluster e i padiglioni una non statali, una giornata non basta. Una giornata non basta, quindi domani continueremo in questo racconto, ma sicuramente di spunti ce ne sono moltissimi. Come ho detto stamattina, lo ribadisco in serata, mi raccomando, andateci in metropolitana. Perché è sì, di infatti gran stamattina lunga hai vinto migliore. La battaglia, come dire, la sfida con la nostra Laura Bettini, che ha provato sì, ad arrivare in macchina. Basse, poverina, perché, e devo dire, insomma, è stata una tragedia per lei. È arrivata molto dopo di te. Invece, il servizio della metropolitana mi è sembrato, da come l'hai raccontato, che abbia funzionato davvero bene. Ma sai, banalmente è lì, ha funzionato, e ecco, di già fatto quello. 250-300 metri dal cancello, per cui insomma, se funziona funziona, e la distanza da percorrere a piedi è francamente piuttosto ridotta. Tra l'altro è una bella passeggiata, perché con questo ponte sospeso si ha un primo sguardo su Expo arrivando, quindi assolutamente piacevole. Tu sei riuscito a vedere anche il Padiglione Italia? Sì, assolutamente, l'ho visto nella parte, diciamo, aperta, per meglio dire, lo stanno aprendo tutto, ma ci sono ancora delle zone, la famosa zona Lombardia, eccetera, che io non ho visto con i miei occhi. Lo cito perché è stato anche un po' l'oggetto delle polemiche nelle settimane scorse, le parti incomplete. Il Padiglione Italia nella sua, diciamo, complessità è aperto e perfettamente operativo. Poi ci sono sicuramente, soprattutto nel quarto e nel quinto piano, delle zone che non sono ancora accessibili. Gigi, ascoltiamo insieme alcune voci raccolte da Laura Bettini, che invece l'ha visitato tutto davvero, il Padiglione Italia, insomma, in tutti i suoi, e ha raccolto anche delle interviste, perché chi ha lavorato sul Padiglione Italia, oltre che essere molto stanco, come è inevitabile in questi giorni, in realtà non è del tutto soddisfatto del proprio lavoro. Michele Molè, architetto dello studio Nemesi, che ha progettato Palazzo Italia ispirandosi alla foresta urbana, ascoltiamolo al microfono di Laura Bettini. Di Nemesi, ma anche gli ingegneri che hanno collaborato con noi, BMS, Proger, ma anche le imprese che hanno lavorato. Insomma, abbiamo veramente cercato di lasciare qualcosa di importante. E secondo te hanno lasciato qualcosa di importante? Beh, sicuramente nell'ambito dell'Expo il Padiglione Italia ha una sua, come dire, dignità molto particolare, intanto in termini volumetrici, poi perché è più grande, non è che ci sia molto da, e lo è nettamente. Quindi spicca, poi, non puoi non vederlo, insomma. Beh, no, assolutamente, sono 5 piani, un volume importante, in più è accanto all'albero della vita, insomma è chiaro, siamo in Italia, l'Expo italiano ha una posizione molto particolare, certo. Ci mancherebbe. Nello stesso tempo, siccome appunto i volumi poi non fanno alla fine, no, magari il fascino di un luogo, io oggi, ripeto, non l'ho esplorato bene ancora, per cui ne riparleremo. Ho trovato, per esempio, molto suggestivo la scelta dei giapponesi di costruire una sorta di Lego. Loro hanno costruito un padiglione a pezzi di legno e l'hanno letteralmente costruito un pezzo sull'altro. Ho trovato molto suggestivo la scelta brasiliana di questo luogo così naturale, per cui quando passi con la rete tu cammini sopra una rete letteralmente, e sotto di te ci sono queste parti di foresta. Quindi sono elementi di suggestione che arrivano davvero da tanti padiglioni, e non dimentichiamo che poi, come dire, il padiglione è una parte, poi c'è tutto il discorso dell'evento, per cui ci saranno le giornate delle varie nazioni, a cominciare dalla giornata europea del prossimo 9 di maggio ovviamente, e così via. Quindi insomma c'è la parte dell'animazione del padiglione, che è un elemento importante della storia. E che tu continuerai a raccontarci almeno domani e dopodomani, poi insomma si vedrà, ci daremo un po' il cambio. Grazie mille, ottimo. Grazie a Gigi Donelli per averci davvero raccontato questa giornata che ricorderemo anche nei prossimi anni. E lo vorrei lasciare ascoltando però un'altra intervista raccolta dalla nostra Laura Bettini. Marco Balic è il direttore creativo del Padiglione Italia, di cui abbiamo appena parlato, quindi ideatore anche dell'Albero della Vita. Il palazzo entrando i visitatori nel palazzo trovano principalmente una mostra che con delle bellezze naturali e artistiche del nostro paese, ma anche i disastri ambientali che sono accaduti negli ultimi anni, molti anche i progetti innovativi che vengono mostrati. Allora sentiamo Balic. Quindi diciamo che è una mostra pensata per divertire, intrattenere, rendere e porre dei punti di domanda su delle questioni, in modo da riflettere sull'identità italiana, di quanto importante e fortunato, quanto importante è nascere in Italia e quanto sono fortunati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. La zona intorno alla scala è completamente blindata, polizia e carabinieri hanno rafforzato i cordoni di sicurezza, tutte le vie di accesso sono bloccate dai blindati delle forze dell'ordine. Questo dopo che oggi pomeriggio alcuni manifestanti No Expo hanno devastato letteralmente il centro di Milano, auto incendiate, vetrine infrante, 10 i fermati a fine giornata. Il messaggio di lavoro, orgoglio e valori che viene da Expo non sarà insultato dai violenti e da questi vigliacchi incappucciati, ha commentato Palazzo Chigi. Sindacati a Pozzallo questa mattina nel giorno della festa dei lavoratori. Per la leader della CGIL Susanna Camusso, dal governo solo propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea occupazione. Intanto la disoccupazione rimane una ferita lacerante nel corpo sociale, dice il presidente Mattarella, secondo cui il lavoro è la prima delle priorità. A Piazza San Giovanni il tradizionale concerto del primo maggio. E 6 poliziotti incriminati a Baltimora per la morte del 25enne nero Freddie Gray. È assolutamente vitale che la verità su quello che è successo venga fuori, ha detto il presidente americano Barack Obama. Torniamo a collegarci con la scala, con la nostra Marta Cagnola. Marta, buonasera, ti stiamo distogliendo. Buonasera, lo so che non ci vuoi bene in questo momento. No, in realtà la situazione in questo momento è particolarmente complicata perché fatichiamo molto a concentrarci sulla Turandot, nonostante sia molto bella, e anche nell'intervallo gli spettatori che abbiamo incontrato erano particolarmente entusiasti. Dicevo, fatichiamo un po' a concentrarci perché le notizie che arrivano da fuori non sono particolarmente confortanti, perché la zona che già era completamente blindata è stata ulteriormente rafforzata nei cordoni di sicurezza. Lo dicevamo, sì. Giusto, sì, perché si teme proprio pochi minuti fa. Sì, potrebbe non quindi essere finita qui, quindi questa è la sensazione. La sensazione è che le forze dell'ordine si stiano preparando non ad altri scontri, ma a proteggere ulteriormente l'area. Sì. Perché appunto poi ci saranno le uscite delle autorità e del pubblico, quindi cordoni di sicurezza ulteriormente rafforzati. Certo, Pisapia intanto dice, lo leggo dalle agenzie, ci costituiremo parte civile. Prima aveva invece assicurato, rassicurato i milanesi che si farà ordine in città davvero immediatamente, nelle prossime ore si comincerà già a lavorare per pulire, per sistemare, eccetera. E comunque la notizia di questi minuti è che invece Pisapia annuncia che si costituirà, che Milano si costituirà parte civile. Quindi insomma una Turandot un po', non dico nella paura, però insomma non è proprio una festa quella di questa sera, diciamolo. No, è proprio un peccato perché lo spettacolo è molto bello, un allestimento coloratissimo, curatissimo, costumi straordinari, delle ottime scene e appunto applausi alla fine di ogni atto, c'è stato anche un applauso a scena aperta. Però sicuramente la festa non è completa, anzi è tutt'altro che un clima vogliamo di festa. Vogliamo sentire su questo Giorgio Armani, che peraltro ieri sera ha inaugurato il suo Silos in un'altra zona di Milano. Insomma, Milano in questi giorni sta offrendo veramente il meglio di sé. Sentiamo Armani, è una voce che hai raccolto proprio tu questa sera lì alla Scala. Sono profondamente dispiaciuto, anche se in realtà io sono un po' una strega, sentivo che succedeva qualcosa, è successo, mi dispiace molto perché era una buona giornata che meritava una buona fine giornata. Speriamo nella Turandot, come dicevo prima, speriamo nella buona Turandot. Ecco Marta, però parliamo un attimo della Turandot, tu hai anche passato un'intervista a Chailly, se vogliamo l'ascoltiamo, decidi tu, insomma raccontaci un po' di quest'opera. Noi in realtà stiamo appunto aspettando l'ultimo atto ed è la particolarità di questa Turandot, perché l'opera incompiuta è stata completata nella sua prima esecuzione dal maestro Alfano, e questa è l'esecuzione più comune. Invece nel 2003 era stato scritto un finale che utilizzava più frammenti di quelli che erano stati composti ulteriormente da Puccini prima di morire, e questo finale era stato scritto da un compositore contemporaneo, Luciano Berio. Ebbene, questo finale alternativo, che è molto meno rappresentato, sarà proprio quello della Turandot di questa sera, anche perché il direttore è lo stesso, Luciano Scegli, il regista Nicolas Lenoff, il tedesco Lenoff, è lo stesso di quel 2003, quindi è un omaggio a una versione meno rappresentata, ma probabilmente più aderente a quella che aveva in mente l'autore prima di morire, di lasciarla incompiuta. Che dici, la sentiamo Chailly, il direttore musicale che tu hai raccolto per noi? Sentiamolo. Fa parte della storia della Scala, è nata nel 24 sotto la direzione del grande maestro Toscanini, è amata dal pubblico di tutti i continenti del mondo ed ha una grandezza nel suo linguaggio assolutamente strabiliante ancora oggi. Ricordo che Puccini negli anni 20 ha cercato di trovare nel suo linguaggio stesso un progressivo evolversi, anche nei confronti della modernità del suo linguaggio. Grazie a Marta Cagnola. Allora ti lasciamo la tua Turandot, se no davvero ti togliamo gran parte dell'opera. Grazie mille Marta, a dopo e speriamo che vada tutto bene. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. Questa è tutt'altra musica, peraltro di un autore che i nostri ascoltatori dovrebbero conoscere molto bene, Enrico Ruggeri, perché musica di tutt'altro genere, perché ci trasferiamo a Roma. Vediamo se questa volta riusciamo a parlare con la nostra Alessandra Schepisi, che sta seguendo il concertone a Piazza San Giovanni. Alessandra? Sì, buonasera Piera, sì, tutt'altra musica qui a San Giovanni, si balla e si canta sulle note del rock e del pop ormai da quasi 6 ore, l'energia di questa piazza è davvero ancora tanta, una piazza scatenata, tantissimi giovani, e gli organizzatori hanno parlato di 1 milione di presenze, tanti giovani venuti qui sin dalle prime ore del pomeriggio, forse complice anche il bel tempo. È una piazza bella, una grande festa e soprattutto anche una piazza che è più sobria per ordine del prefetto, che ha vietato, ha imposto il divieto di vendita di alcol per la prima volta in tutta la zona. Poco fa ovazione per l'attesissimo J-Arts in duetto con Noemi e per Irene Grandi, sono 37 gli artisti che si sono esibiti, che ancora lo faranno per 3 ore perché si conclude il tutto a mezzanotte. Tra i nomi Paola Turci, Goran Bregovic, Blu Vertigo, Alex Briti, Alma Medesa, Mario Venuti, Marin Cudine, Tricarico, dell'Era, Teresa Zio, Otto Om, e poi è già citato appunto Enrico Ruggeri. Divertimento, musica, ma anche, come sappiamo, impegno e solidarietà, non dimentichiamo che questa è proprio la kermesse voluta dai sindacati per celebrare il 1° maggio, un po' la colonna sonora della festa dei lavoratori, anche se ha perso un po' della sua centralità per la concomitanza di altri eventi poi in giro per l'Italia. Quest'anno 25esima edizione condotta da Camilla Rasnovic, conduttrice che tra l'altro ha chiesto di esprimere 1 minuto di silenzio all'inizio della kermesse per le vittime del terremoto in Nepal e dei naufragi nel Mediterraneo. E che probabilmente stiamo sentendo in sottofondo, perché sentiamo una voce, sentiamo più lei di te in realtà, Alessandra. È Camilla quella che sentiamo in sottofondo, immagino. Sì, i decibel sono altissimi qua. Tra l'altro, stessa conduttrice che ha condannato gli scontri di Milano, ha detto: da milanese provo dolore immenso per la città. Questa condanna è arrivata anche da molti artisti sul palco. Poi dicevamo, la conduttrice è stata poi affiancata da tutti i conduttori delle passate edizioni in occasione di questa 25esima appunto edizione. Dicevamo che insomma non è soltanto musica, ma è anche, insomma, ricordiamolo, la festa dei lavoratori. Tu hai raccolto delle voci per noi. Sì, ho raccolto delle voci di alcuni ragazzi, alcuni giovani meno giovani, che raccontano un po' qual è il senso di questa manifestazione e se ha ancora senso festeggiare un 1° maggio, la festa dei lavoratori, le possiamo sentire. Secondo me ha senso, perché il lavoro, come dire, vabbè, noi veniamo tutti dal precariato, lei è ancora precaria, mia moglie è precaria. Che ti dico, e penso che bisogna tenere sempre vigile l'attenzione sul lavoro che manca, perché il precariato è troppo lungo, quindi non ti costruisci una famiglia, se uno in famiglia vuoi due bambini, uno deve avere il tempo indeterminato. Io credo che la festa del primo maggio sia solo un grande ricordo della festa dei lavoratori. Non ha più senso festeggiarla? Ma io penso di no, cioè nel senso, sai, ci sono molti giovani, ma gente della mia età. Grazie alla nostra Alessandra Skepsi. Noi ci ritrasferiamo a Milano, che in questi giorni è davvero al centro del mondo, il Duomo in particolare, al centro di Milano, un Duomo che proprio in questi minuti, poco fa alle 21.30, si è illuminato di una luce nuova. Perché? Che cosa sta succedendo? Monsignor Borgonovo, presidente della veneranda fabbrica del Duomo. Sta succedendo davvero un evento del tutto singolare, al di là della normalità. La normalità sta nel cambio di un sistema di illuminazione per la cattedrale, ma la vera novità è che con questa illuminazione per la prima volta il Duomo si rivela in maniera piena, perché nell'antichità il sistema con la luce calda delle candele e delle torce aveva però il limite di non poter illuminare tutte le parti, molte parti rimanevano in penombra, molte parti rimanevano non viste, pensiamo alla decorazione delle volte oppure anche alla proiezione della profondità, della larghezza che il Duomo aveva. Perché da questi minuti quindi il Duomo splenderà di questa luce nuova, dicevamo, che è una luce poi tutta a LED. A corpi illuminati a LED, sì, tutti i corpi illuminanti a LED, che è questo sistema davvero particolare, per cui si può imitare benissimo la calda luce della candela, però ad una potenza davvero nuova, eccezionale. E non ultimo con un risparmio energetico importante, che insomma sì, è giusto che anche la Chiesa faccia la sua parte, come dire, no? È giusto, anzi bisogna dire una cosa simpaticissima, e cioè che la ditta alla quale alla fine abbiamo affidato l'esecuzione della illuminazione, la ERCO, ha già ricevuto un premio da Lega Ambiente proprio per la costruzione di un impianto di grandi dimensioni che diminuisca sensibilmente il consumo. Ed è tutto per questo Effetto Notte, che tornerà lunedì con Roberta Giordano. Grazie in redazione a Cristian Goldoni, in regia Carmelo Lauricella, al microfono Maria Piera Ceci.